questo martedì 8 novembre. I titoli ovviamente sono tutti sulla situazione politica molto incerta. Berlusconi resiste, lo spread vola, così titola Il Sole 24 Ore in prima pagina. Per il Corriere della Sera, Berlusconi: vi sfido a votarmi contro. Repubblica: Berlusconi resiste, i mercati fuggono. La Stampa: l'atto di forza di Berlusconi. Per il Giornale: non me ne vado. E Libero anche: venitemi a prendere, c'è un disegno di Berlusconi, elmetto militare che rimbocca le maniche con fare minaccioso. Il Fatto Quotidiano: finito a colpi di borsa e borsette. Governo: la sfida di Berlusconi anche per il Messaggero. Insomma, questi sono i titoli di apertura. Vogliamo partire con qualcosa di più diverso, qualcosa di più leggero, che mette in prima pagina il Corriere della Sera una vicenda che riguarda Livorno. Un bambino escluso dalla squadra e l'impegno del vescovo a far giocare tutti. Il titolo in prima pagina è: la fortuna di essere una schiappa, di Mauro Kovacic. Un padre, vedendo il figlio dodicenne rientrare dall'allenamento ancora una volta in lacrime, e si parla di calcio, per la mancata convocazione alla partita di domenica, chiede spiegazione all'allenatore, il quale, senza giri di parole, risponde che il ragazzo non può far parte dell'organico perché è in sovrappeso. Accade a Livorno, ma potrebbe accadere in qualsiasi città di questo paese malato, scrive Mauro Kovacic, che poi continua all'interno a pagina 27. Il fatto è segnalato dal Tirreno, il quotidiano di Livorno, da una lettera del genitore che, omettendo il nome della squadra, si interroga sulle finalità educative di un simile ambiente sportivo. In coda al dibattito interviene anche il vescovo Simone Giusti con una provocazione impossibile non raccogliere. Mi sto adoperando per rilanciare gli oratori in città e penso a quei ragazzi che rischiano di essere tagliati fuori dallo sport. Sogno una squadra di schiappi. E qui Kovacic si chiede: ma può il nostro sport, la nostra società, accettare una squadra di schiappe? Ovviamente si gioca per vincere ed è giusto che lo sport mantenga la sua fisionomia competitiva, ma ciò che più salta agli occhi di questa vicenda non è il risvolto agonistico, ma quello relativo agli standard fisici e alla filosofia professionalizzante che li sottende. Giocando nel cortile di casa tutti sognavamo di essere i nostri eroi. Io ero Johan Neskens, il magico regista dei tulipani. Sapevo di non esserlo, ma ciò non mi impediva di urlarlo a pieni polmoni mentre accennavo goffi dribbling tra gli avversari, né mi impediva di tornare a fare i compiti a fine partita, la maglietta di sotto appiccicata alla schiena, la mente lucida come i sassi di un torrente. Ma oggi, scrive Kovacic, è tutto cambiato. Spesso anche i genitori sono in linea con questa filosofia. Rompilo è stato l'incitamento che mi è capitato di sentire a una partitella rionale. I ragazzini meno fortunati ci credono. Hanno smesso di sognare, ci credono davvero, rincorrono l'avversario, cercano di romperlo. Anche se i loro tesserini, salvo rarissime eccezioni, diventeranno presto carta straccia negli archivi delle società sportive. I ragazzini più fortunati invece smetteranno di crederci in tempo e, grazie ai loro corpi meno adatti, cresceranno meglio e torneranno a divertirsi. Insomma, volevo partire così, con questo articolo di Mauro Kovacic, che fa una riflessione a partire da questa notizia di cronaca: un bambino, un ragazzino, un adolescente di 12 anni escluso dalla squadra, e la motivazione perché è troppo grasso. Il calcio è un diritto di tutti e il vescovo arruola schiappe. Bimbo sovrappeso in panchina, interviene la curia. Allora, che dire, ci fermiamo per 6 minuti e poi ci tufferemo in quella che è l'attualità politica. Ovviamente i giornali sono tutti, per la maggior parte, concentrati su quello che sta succedendo nei giorni decisivi per la tenuta o meno del governo, e da qui ripartiremo tra poco. 24 mattino. Allora, quando sono le 7:33 minuti, vediamo che cosa si profila all'orizzonte di queste giornate decisive per la tenuta di governo, ricordando che dalle 8:20 poi fino alle 10 ne parleremo in un lungo speciale con Oscar Giannino e tanti ospiti. Intanto l'idea è quella di un Berlusconi che qualcuno in maniera critica lo definisce asserragliato in un bunker, cioè deciso ad andare avanti fino alla prova di forza, quella dei numeri in Parlamento. Se devo morire lo faccio in aula, non la do vinta a casini e fini, così titola per esempio il Corriere a pagina 3. Ieri Berlusconi è stato prima a Roma, poi è venuto, è andato ad Arcore, dove ha fatto un pranzo con i figli, poi in serata è tornato a Roma. Finirà che mi sono dimesso senza saperlo, ha ironizzato secondo Marco Galluzzo per il Corriere della Sera sulle voci, sui tam-tam che si sono rincorsi tutta la giornata di possibili dimissioni poi smentite. E ai suoi collaboratori più stretti, quelli che hanno detto al Premier è il caso di fare un passo indietro, ha risposto, avrebbe risposto, secondo il Corriere, siete voi che non capite, io nasco nelle urne alla luce del sole e se devo morire lo faccio in Parlamento. Non mi dimetto perché la Carlucci passa con l'UDC o perché la Bertolini ha dei dubbi. Avrò fatto degli errori ma non rinuncio ai miei principi e a quello che rappresento, perché un'opposizione irresponsabile dice di tenere al Paese ed è pronta a non votare le misure economiche. Certo che però il pressing sulla persona Berlusconi si è fatto enorme. Ieri appunto questo pranzo con i figli, su cui ritorneremo più tardi. Ieri il pressing si è concretizzato, scrive anche Repubblica, col fatto che Bossi, che è peraltro secondo tutti i quotidiani si è rifiutato di andare personalmente ad Arcore, ma ha mandato Calderoli, e la Lega di fatto con l'emissario di Bossi, vale a dire il ministro Calderoli, che ha raggiunto Berlusconi ad Arcore, gli ha chiesto di fare un passo indietro, fatti da parte e mettiamo Alfano al tuo posto. Questa sarebbe stata la proposta leghista, con la risposta di Berlusconi no. E secondo anche retroscena di Claudio Tito in prima pagina di Repubblica, anche Gianni Letta gli avrebbe detto: stai commettendo un errore, se vai avanti così nessuno ti può aiutare, nemmeno noi, nessuno può garantirti più i numeri alla Camera. Se a parlare così, scrive Tito, è un uomo prudente, soprattutto leale nei confronti di Berlusconi come Gianni Letta, allora davvero inspiegabile l'ostinazione con cui il Cavaliere sta insistendo per la sua strada contro tutto e tutti. Sta di fatto che questa è la linea scelta da Berlusconi, resistenza di fatto a oltranza e resistenza fino al voto del Parlamento. Oggi c'è il voto sul rendiconto generale dello Stato, nel pomeriggio. Al mattino Berlusconi incontrerà quelli che sono considerati i dissidenti o i traditori o i voltagabbana o i malpancisti o i frondisti, chiamateli come volete, quelli che hanno manifestato dei dubbi sul rimanere al suo fianco. Vi segnalo due commenti in prima pagina del Sole 24 Ore, il suo direttore Roberto Napoletano, il titolo è La fiducia del mondo, siamo nel ciclone del mondo ma possiamo rapidamente recuperare, scrive Napoletano. All'Italia oggi serve credibilità internazionale, servono uomini che conoscano la lingua dei mercati e degli stati e sappiano parlare ai paesi dell'area euro, ma anche alla Svizzera, al Regno Unito, all'America di Obama, ai nuovi ricchi della terra, a partire dalla Cina. Dobbiamo dimostrare di agire presto con le persone giuste, di sapere adempiere gli impegni contratti con la lettera all'Unione Europea, di volere saper fare anche di più e meglio, realizzando quelle riforme che già di nostro avremmo dovuto attuare. Noi possiamo farcela davvero perché non siamo la Grecia, come di tutta evidenza. La via maestra per uscire dalla spirale perversa è una sola. Bisogna che la politica tutta, a partire da Berlusconi ma anche le opposizioni, si faccia un pubblico esame di coscienza, esposi con realismo e convinzione la causa italiana. A questo punto purtroppo non basta più il passo indietro del Premier, è fondamentale che la formazione successiva sia guidata da persone che aiutino il mondo a percepirci come seri e credibili. E conclude tra l'altro Napoletano il suo editoriale con un PS: Berlusconi guardi pure in faccia chi dei suoi lo tradisce, ma dimostri che il PDL non è il partito personale di cui tutti parlano, eviti il marasma, assicuri in Parlamento i voti di quella forza moderata di cui l'Italia ha bisogno per riconquistare la fiducia del mondo. Siamo certi che il tempo lo ripagherà di questa scelta. Perché c'è questa idea, no? Voglio guardare in faccia chi mi tradisce, che enfatizza questo momento del Premier che sembra appunto pronto alla battaglia finale. Il secondo commento che introduce la questione dei cosiddetti o malpancisti o frondisti, insomma dei politici che stanno cambiando negli ultimi momenti schieramento, e l'ultimo tra l'altro è il sottosegretario agli esteri Vincenzo Scotti, che ha mandato una lettera e si dimette dalla Farnesina, si dimette da sottosegretario agli esteri. Lui non è parlamentare, ma pare che controlli o a lui siano fedeli due parlamentari. Ebbene, Vittorio Feltri in prima pagina del Giornale scrive l'editoriale dal titolo Il mercato delle vacche, vergogna in Parlamento. Tra l'altro fa una premessa, Feltri dice, insomma la premessa è d'obbligo, la compravendita dei deputati assomiglia al mercato delle vacche, non è un'espressione elegante, e mi scuso con Gabriella Carlucci, non vorremmo che riportare per dovere di cronaca la notizia del trasferimento risultasse offensivo per la gentile signora, che pure è nostra amica da anni, ci dispiacerebbe se la prendesse male. In ogni caso i fatti sono fatti, e scusandoci per l'accostamento dell'onorevole alla tratta in corsa a Montecitorio, sottolineiamo tuttavia che i cambiamenti di bandiera in articolo mortis sono moralmente ed esteticamente inaccettabili. Quando lo fecero i vari scilipoti scoppiò una polemica e casi giudiziari finiti in nulla. Ora che avviene il contrario e sono le Carlucci a zompare da una sponda all'altra, non si dice nulla, silenzio. Chi aveva gridato non sussurra nemmeno. Due pesi e due misure. E a proposito di questo ci introduce al discorso della conta dei numeri. Intanto, visto che si è citato Scilipoti, Scilipoti è intervistato oggi dal Corriere della Sera con Fabrizio Roncone a pagina 9. Maiale io, e io sarei il maiale, no dico io sarei il maiale, inizia così Scilipoti l'intervista. Vabbè, Scilipoti, scusi, mi si rivolta lo stomaco dalla rabbia, sono lo zimbello di tutti, cammino e la gente sghignazza, sto in macchina e mi fanno pernacchie, per non parlare di quelli dei centri sociali che mi danno la caccia coi bastoni. Beh, mi spiace, le dispiace, non mi interessa se a lei dispiace. Scilipoti è uno sfogo inenarrabile, il che al sesto sfogo Roncone dice scusi, io l'ho chiamata per farle qualche domanda se possibile. Ma che domanda? Cosa ne pensa dell'onorevole Carlucci? Che il Signore la illumini, la risposta di Scilipoti. E Isabella Bertolini? Oh, la Bertolini, che il Signore l'accompagni, perché sa, a me ha aiutato la fede. Dicevo, Domenico, devi resistere, ti hanno messo in croce ma tu resisti, non ascoltare quelli che stanno lì col ditino alzato a dare lezioni di coerenza, anche perché se dovessi ascoltarli. Insomma, Scilipoti fa una lunga intervista a sfogo in cui dice io sarei il maiale, e questi cosa sono, quelli che stanno passando ora dalle altre parti. Poi però Scilipoti pensa alle urne, dice forse andrò con una mia lista, ma appoggerò Berlusconi e vuol farmi leggere nel futuro? Così scrive Scilipoti. Mentre invece chi non ci sta a essere additato come possibile traditore è Roberto Antonione, che è ex coordinatore del PDL in Friuli e che ha già detto io lascio Berlusconi. Silvio mi ha invitato ma non andrò a parlargli, perché oggi Berlusconi incontrerà appunto alcuni di questi come Straquadagno, la Bertolini, alcuni firmatari della lettera. Antonione dice mi ha invitato ma io non ci andrò, sempre al Corriere della Sera ha intervistato una Monica Guerzoni. Come potrei? Dice che i traditori li vuol guardare negli occhi, ma io non sono un traditore. Una frase così non mi ha fatto piacere. Io non ho complottato, ho espresso con chiarezza una posizione politica. Sta di fatto che, come titola La Padania, oggi prove di ribaltone è tutta una questione di numeri. L'idea potrebbe essere questa, che il rendiconto generale dello Stato oggi potrebbe passare, a un atto anche dovuto. Può essere che molti parlamentari, anche che hanno questi mal di pancia dell'ultimo momento, si accettino comunque o di non votarlo, o di astenersi, comunque di votare il rendiconto generale dello Stato, ma poi... Quindi oggi dovrebbero esserci i numeri, ma poi potrebbe arrivare dall'opposizione o una mozione di sfiducia. Oggi l'opposizione si riunirà stamattina per capire come muoversi, o una mozione di sfiducia, oppure mercoledì o giovedì, quando arriverà questo maxi emendamento alla legge di stabilità, che recepisce tutte le questioni dell'Unione Europea, secondo il governo, e sul quale Berlusconi ha detto porremo la fiducia, ecco, forse è lì il momento, più che oggi, forse già oggi, ma forse più nei prossimi giorni, che si capirà se i numeri ci sono. Però è tutto un far di conto in Parlamento, no? Di quanti sono i numeri, non ci sono i numeri. C'è anche questo giallo ieri che è stato lanciato dal direttore del Foglio Ferrara, dal vice direttore di Libero Franco Bechis, queste dimissioni ad horas che venivano date di Berlusconi, con i mercati che subito si sono alzati, lo spread si è abbassato, poi le dimissioni sono state smentite, lo spread è rialzato tra Bund e BTP, le borse sono ricalate, insomma, tanto che qualcuno, e la Consob ha aperto e acceso dei fari su questo, vuole capire se c'erano le misure per accusare addirittura Ferrara e il vice direttore di Libero Bechis di aggiotaggio, cioè di aver influito con informazioni riservate sull'andamento dei mercati finanziari. E Franco Bechis poi cosa ha fatto? Ha messo, alimentando un giallo incredibile, ha messo per autodifesa, dice lui, per far vedere che facevo solo il cronista, un audio sul sito di Libero in cui scambiava delle frasi con un alto dirigente del Popolo della Libertà. La voce era un po' modificata, è che questo alto dirigente del Popolo della Libertà ha detto... doveva dimettersi oggi, ma quella testa di cazzo è andata a Milano, riferendosi a Berlusconi. Per cui, insomma, questo già credo che Berlusconi si dimetta in giornata o comunque domani, già prima del voto. Insomma, Bechis ha detto: avete visto che avevo le prove di un altro dirigente che diceva si dimette. Soprattutto diceva anche un'espressione molto molto esplicita nei confronti del Premier. Chi è questo alto dirigente? Per tutta la giornata si è rincorso all'idea che fosse il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto, che prima ha smentito, poi ha detto chiedete a Bechis, Bechis ha smentito, Bechis oggi sul Foglio ancora smentisce, secondo il Corriere della Sera poi però c'è stata una nota in tarda serata di Guido Crosetto che dopo aver smentito, ritrattato, poi ha detto non mi va di raccontare balle, non ne sopporto il peso, la telefonata con Bechis è mia. Era un discorso con un vice direttore giornalista che conosco da 11 anni di centrodestra, berlusconiano doc di un giornale amico che, come succede molto spesso, mi chiamava per capire ciò che poteva succedere. Gli ho detto ciò che poteva succedere e le motivazioni. Sta di fatto che, insomma, il momento è difficile, come detto e come avevo detto in apertura, torneremo su questo vertice di Berlusconi ieri con i figli, perché ci sono scenari, retroscena di quello che si sarebbero detti sui giornali tra poco. E allora il patto con i figli di Berlusconi sarebbe resto finché c'è speranza, così titola almeno il Secolo XIX, pagina 3, ma certo questo vertice che c'è stato ieri ad Arcore con i figli accende i riflettori, invece, come scrive il Sole 24 Ore, pagina 7, anche sul futuro. Il Premier e la Fininvest, il futuro politico si intreccia con quello imprenditoriale, scrive Simone Filippetti, perché nel giorno più convulso dei suoi anni a Palazzo Chigi il destino del Premier coinvolge anche le sue aziende, a partire da Mediaset, ritenuta la più sensibile ai cambi di vento del potere. E così la consueta riunione del lunedì ad Arcore tra Berlusconi e famiglia ha assunto il sapore di un vertice straordinario. C'erano presenti, oltre ai figli, anche Fedele Confalonieri, ma anche Bruno Ermolli, il super consulente finanziario più vicino e ascoltato dal Premier. E durante la colazione è stato fatto il punto sullo stato di salute delle varie aziende. Poi il Premier a pranzo ha incontrato privatamente una serie di esponenti politici. D'altronde, scrive il Sole, da 15 anni il mercato lega le sorti dell'inquilino di Palazzo Chigi a quelle di Mediaset. Tanto che a Piazza Affari lo chiamano Premier Discount, l'espressione con cui gli analisti valutano l'impatto della politica sull'azienda. Anche Rinaldo Gianola, il vice direttore dell'Unità, pagina 3, racconta di come Marina Berlusconi, soprattutto la presidente di Mondadori e di Fininvest, accanto al papà lo invita a resistere, a tirare avanti col governo senza cedere a trucchi e tranelli. Lo stesso Confaloniere avrebbe detto: si va in Parlamento, è lì che devi chiedere la conferma dei voti, e lì nel caso devi ottenerli oppure devi cadere. Anche Ettore Livini su Repubblica. Mediaset, divorzio, eredità, l'impero economico di Silvio adesso rischia l'assalto, e di questo si sarebbe discusso per Repubblica ad Arcore. Staremo a vedere, una giornata, una delle tante giornate convulse. Chiudo col solito sorriso di Iena sulla Stampa, pagina 3. Mario Monti for president? Che fatica essere di sinistra. Voglio andare a Genova, dove le polemiche sul maltempo rimangono. Il sindaco di Genova oggi farà una conferenza stampa, rilascia solo un'intervista a Repubblica, a Corrado Zunino, a pagina 15. Ho sbagliato a non chiudere le scuole, ma i presidi hanno ignorato i miei ordini. Insiste il sindaco, che dice: sto malissimo, sono provata. Abbiamo comunicato a tutti i giornali e ai siti locali l'allerta 2, 24 ore prima del nubifragio. Le dico una cosa che fra poco porterò in consiglio comunale. Alle 11 di mattina, due ore prima del disastro, il comitato di crisi ha compreso la portata del nubifragio. La direzione scolastica ha contattato tutti i presidi della zona. Ma alcuni presidi non hanno tenuto conto del vostro nuovo allarme, sta dicendo. 10 tra elementari, medie e superiori hanno lasciato liberi gli studenti. I ragazzi hanno iniziato a chiamare i genitori. Veniteci a prendere, la scuola non ci tiene. Insomma, una Marta Vincenzi che insiste anche sulla bambina albanese morta. È stata la madre a insistere per prenderla, ma non voglio parlare di questo, c'è troppo dolore. Non attacco nessuno, non dico che sia colpa dei presidi, ma rivelo elementi per fare chiarezza assoluta. Poi però il mea culpa di Marta Vincenzi dice: col senno di poi, certo, avrei chiuso non solo le scuole, ma gran parte della città. Le scuole però non possono diventare il rifugio delle famiglie che non sanno come organizzarsi. E poi quest'altra frase molto dura: il bilancio poteva essere peggiore, sa? Abbiamo salvato 20 persone da morte certa. Comunque la Vincenzi che dice: non sono una vigliacca e non mi dimetto certo ora, ma tra 6 mesi si vedrà, secondo qualcuno ormai si è rigiocata la candidatura. Tra l'altro ci sono le polemiche sia per la frase di un leghista che a Torino, il deputato Davide Cavallotto, ha detto: almeno la pioggia è riuscita a far sgomberare il campo rom abusivo laddove non era arrivato il sindaco Fassino. Polemiche per questa frase, come polemiche anche per lo show di Luciana Littizzetto domenica, A che tempo che fa, con la sua solita ironia sferzante, però è ironizzato su un tema nel quale c'erano appunto dei morti. E ha detto Luciana Littizzetto: attenti al buco dell'ozono, dicevano tutti a ridere e scherzare, hanno sradicato tutto, cementato, costruito in ogni buco di naso, e dico naso per non dire buco, È come se una Natale avesse fatto il presepe dentro al water e si lamentasse se qualcuno tira l'acqua. Ecco, questa frase, questa ironia non è piaciuta. Littizzetto, un mare di insulti, liguri, furibondi, scrive Il Secolo XIX a pagina 12. Ci fermiamo qui, è tempo di Giornale Radio.